Bene, possiamo accomodarci. Io avrei un messaggio per noi questa mattina. E in parte, come dicevo, Enza l'ha anticipato. E questo messaggio ha a che fare proprio con il nuovo anno, perché ci sta un nuovo anno davanti. Questa è la prima domenica dell'anno che viviamo insieme, oggi 5 gennaio, e ne avremo tante da vivere insieme. E c'è tutto un percorso, ci sono tanti anni davanti a noi, però io vorrei leggere con voi quello che c'è scritto in Genesi, al capitolo 1, perché, vedete, nella primissima paginetta della Bibbia subito ci viene presentato il fatto che è Dio che ha inventato il tempo, è Lui che ha stabilito il tempo. Dio è senza età, Dio è eterno, Dio ha una vita che è di eternità in passata, in eternità futura, e Lui non è vincolato dallo spazio e dal tempo, ma Lui ha creato il tempo. E vorrei leggere con voi quello che è accaduto proprio nei primi giorni della creazione. In Genesi 1, versetto 14, noi leggiamo che Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Siano dei segni. Dio ha voluto che ci fossero dei segni, ed è per questo che noi riusciamo a calcolare il tempo, ad essere orientati con dei calendari sistematici che seguono il percorso della natura che è stata creata da Dio. Poi va avanti e dice nel versetto 15: facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte, e fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Sapete quello che noi leggiamo come passaggio successivo? Cioè, che cosa creò Dio subito dopo? Beh, subito dopo Dio creò gli animali. E noi sappiamo benissimo che gli animali hanno un orologio biologico. Gli animali seguono il percorso del tempo. Sappiamo della migrazione di certi uccelli, sappiamo del letargo di certe specie, sappiamo del cambio del pelo, delle piume, che è stabilito secondo un ordine che ha a che fare con le stagioni e con i tempi. Sappiamo dei tempi di riproduzione di certe specie animali. Perché? Perché gli animali seguono il percorso del tempo che Dio ha stabilito il giorno prima di averli creati. E sapete chi crea dopo? Dopo gli animali, il sesto giorno, Dio crea l'uomo e la donna. Dio ha creato l'uomo nel tempo. Dio ha stabilito prima il tempo e poi ci ha collocati nel tempo per funzionare con il ritmo del tempo. E quindi noi abbiamo da seguire dei cicli vitali, fondamentali. Anche noi abbiamo bisogno di seguire quello che è il tempo e di scandire gli anni e di dare valore ai giorni. Se non lo facessimo, questo sarebbe disfunzionale per noi. È risaputo, è oramai una ricerca comprovata, che chi non segue quello che è il naturale percorso delle giornate ha delle ripercussioni psicologiche e anche fisiche. Parliamo dei carcerati che sono in isolamento, o di astronauti che si sono ritrovati a non vivere il ciclo normale della natura, ma ad aver tutto un disorientamento nel tempo, e questo ha portato ripercussioni nelle loro vite. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che noi dobbiamo imparare, come dice la parola di Dio, a contare bene i nostri giorni, a valutare i nostri anni. Ve lo voglio leggere, nel Salmo 90 è scritto così: i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. Oggi con la medicina forse si arriva anche un pochino oltre. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Dice il salmista, chi conosce il timore che è dovuto a Dio, al Creatore, a colui che ha stabilito un ordine per noi che noi abbiamo rotto? Chi conosce questa ira, questo sdegno di Dio? E poi aggiunge, insegnaci dunque a contare bene. Pensate le parole. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Vuoi un 2025 ben orientato, dove la tua vita è caratterizzata da saggezza? Pesa e conta bene i tuoi giorni. Che cosa significa contare bene i nostri giorni? Significa dare valore ad ogni singolo giorno. Ogni giorno è una vita a sé, è un ciclo che Dio ha stabilito sin dall'inizio. La mattina, il sole spunta e poi abbiamo un intero giorno e dopo tramonta il sole. Questo ciclo va rispettato, questo ciclo va valorizzato. Ci sono troppe persone che vivono nel domani. Oh, quando avrò quello che desidero, i miei giorni saranno migliori, i miei giorni splenderanno. Quando avrò quella macchina, quando avrò quella casa, quando avrò quella moglie, quando avrò quella situazione risolta, quando avrò le circostanze, guarda sempre al futuro e lavora inseguendo il vento, dice la parola di Dio, inseguendo l'aria. Non si può inseguire il vento, non si afferra il vento. E tante persone vivono in un futuro incerto, perché sapete una cosa? Il nostro futuro nessuno lo conosce. Quanti hanno il compleanno in questo mese? Siamo in tanti. Non pensavo in così tanti. Auguri anticipatamente, o se è già stato il vostro compleanno, auguri passati. Io compio 44 anni, lo so, non li dimostro. Però sapete, quando ci sarà il mio compleanno, ci saranno 44 candeline da spegnere. Ora, per risparmiare, si va al cinese, si compra il 4 e lo 0, così sono solo due le candeline da spegnere. Il 4 e il 4, scusate, sto rubando già qualcosa. Io mi aspetto un 4 e un 4, ancora meglio se mia moglie si sbaglia e prende un 4 e un 0, però nessuno di noi fa un conto alla rovescia dei propri anni. Tutti noi abbiamo solo la possibilità di contare gli anni passati, ma non sappiamo quanti ce ne rimangono. Non è che io il giorno del compleanno avrò 36 candeline sulla mia torta. È il countdown, meno 36 anni, o meno 35, o meno 30, o meno 20, nessuno lo sa, io non lo posso sapere, tu non lo puoi sapere, quanti anni hai ancora davanti. Hai solo la possibilità di contare gli anni che ti stanno dietro. E allora la parola di Dio dice, sii saggio, non essere orientato continuamente verso quella vita migliore che pensi di poter ottenere, ma che non sai se potrai vivere. Vivi oggi, oggi. Vivi questo momento, oggi è il giorno da vivere, domani è nelle mani di Dio. Oggi è il giorno da apprezzare, da valorizzare. Vivilo oggi, giovani che siete in tutto orientati verso il vostro futuro, è giusto che sia così, che state costruendo il vostro futuro, ma vivete l'oggi, spegnete il cellulare, spegnete le distrazioni, perché oggi è importante ed è oggi che costruisce domani. Se vuoi un 2025, un anno di valore, non sta nei buoni propositi che puoi avere in questo mese, no? Forse qualcuno ha già determinato dei buoni propositi, a fine anno si fa così, no? I buoni propositi per il nuovo anno, ma non sono i buoni propositi che ci danno un anno migliore, è valorizzare ogni singolo giorno che alla fine ci farà apprezzare un anno benedetto. Gesù dice in Matteo al capitolo 6, versetto 34, non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si prenderà cura di sé. di se stesso, basta ciascun giorno il suo affanno. Viviamo in una società che è afflitta dall'ansia, e l'ansia sapete che cos'è? È la paura del domani. In ogni sua forma, in ogni sua diramazione, ansia non è altro che preoccuparsi per cose che non sono reali, perché il domani non è reale. Non sappiamo quello che accadrà. Tu hai oggi, Gesù sta dando un'istruzione molto chiara per non vivere nell'ansia, e dice: vivi e valorizza questa giornata, perché oggi è prezioso per te. E quindi un buon anno dipende dal valore che diamo ad ogni singolo giorno. Io voglio concludere questo incoraggiamento di inizio anno con cinque aspetti molto pratici che noi possiamo vivere ogni giorno e che la Bibbia ci invita a vivere ogni giorno per vivere dei giorni migliori. Il primo è loda. Loda. Loda il Signore. Ogni giorno. In Atti al capitolo 2, i primi cristiani, i primi credenti che si riunivano, leggiamo che cosa facevano nell'entusiasmo della loro conversione, della loro scoperta di una nuova vita in relazione con Cristo Gesù, perché questo è essere cristiani, vivere una vita rinnovata in una relazione quotidiana con Cristo Gesù. E che cosa fanno i primi cristiani? Noi leggiamo in Atti capitolo 2 dal versetto 46 che ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, ogni giorno al Tempio, ogni giorno valorizzavano la Chiesa, ogni giorno valorizzavano la comunità, ogni giorno stavano insieme e leggiamo che rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme. Si parla proprio della cena del Signore, della comunione, del fatto che ogni giorno nelle case condividevano questo pane e questo vino per ricordarsi della morte e resurrezione di Cristo, e poi con gioia e semplicità di cuore c'è scritto lodando Dio. I primi cristiani conoscevano la gioia e l'entusiasmo e il valore della lode quotidiana. Non limitare la tua adorazione, la tua lode alla domenica mattina. Oh, forse per molti di voi dovrei incoraggiarvi: almeno la domenica mattina lodate il Signore. Alza quelle mani, canta a squarciagola, inginocchiati come Marica ci ha invitato a fare, salta, danza, perché la lode è la tua forza, è la mia forza. Nella lode noi riconosciamo il grande Dio che abbiamo, e i testi dei canti ci aiutano a pregare, ci aiutano ad orientare il nostro cuore verso Dio. La lode cambierà il tuo anno. Se tu ogni giorno decidi di lodare il Signore, questo anno sarà diverso. Vuoi un anno diverso? Vuoi un anno benedetto? Vuoi un anno guidato dallo Spirito Santo? Lodalo ogni giorno. Siamo nel 2025 ed è meraviglioso essere nel 2025, perché vedete, i credenti di 2025 anni fa non avevano i dispositivi che noi oggi abbiamo. Non avevano l'opportunità di accendere ovunque i migliori brani di lode e adorazione, sceglierseli. Avevano quel Pietro, che io me l'immagino stonato. Avevano Giovanni, avevano Giacomo. Erano dei pescatori, non credo che fossero intonati, ma loro guidavano tempi di lode e adorazione. E allora oggi, a maggior ragione, accendi la musica, accendi il canto, accendi la lode, ogni giorno. Secondo aspetto da vivere ogni giorno: perdona, perdona. Lo ripeto ancora una terza volta, perdona ogni giorno. Perdona. Io credo che tutti noi abbiamo motivo di vivere il perdono quotidianamente, perché viviamo in un mondo corrotto e in una società imperfetta, e i primi da dover perdonare sono proprio le persone più vicine a noi, perché sono le persone più vicine a noi che molto spesso più ci feriscono, più ci deludono, più ci amareggiano. E Dio ci dà la chiave e ci dice: non dovete cambiare marito, non dovete cambiare moglie, non dovete cambiare famiglia, non dovete cambiare vicini di casa, non dovete cambiare colleghi di lavoro, dovete cambiare il vostro cuore, la vostra attitudine deve essere caratterizzata da quella che è la mia attitudine, da quello che è il mio esempio. perdonate. Ed è così Gesù che inserisce il perdono nella preghiera che tutti conosciamo, la preghiera modello del Padre nostro. Rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi. Gesù ci invita a pregare parlando al passato per assicurarci che quando andiamo in preghiera davanti a Dio quotidianamente noi andiamo già con l'intenzione di aver perdonato i nostri nemici o chiunque ha fatto nei nostri confronti un torto. Rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E sappiamo che questa è una preghiera quotidiana perché poco prima Gesù dice, nella vostra preghiera, dite così: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi non è una preghiera modello che vale per una volta alla settimana, una volta al mese, una volta all'anno, quando ti ricordi, è una preghiera modello che puoi vivere nella quotidianità. E Gesù ti invita a perdonare giornalmente. Ma potrei dire, apro una breve parentesi, perché non voglio dare per scontato che tutti sappiano che questa preghiera ci invita a pregare anche ogni giorno. Quindi perdona ogni giorno, prega ogni giorno, leggi ogni giorno la parola di Dio. E quello che stiamo facendo insieme è ciò che guida e orienta la nostra vita al meglio. Ma andiamo al terzo aspetto che vorrei dare come indicazione per vivere un 2025 ricco. Ogni giorno gioisci. Ogni giorno. L'Apostolo Paolo dice: siate sempre allegri. Rallegratevi sempre nel Signore. E poi c'è questo salmo meraviglioso, il 118 al verso 24, che dice: questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e festeggiamo in esso. Beh, Michele ed Enza hanno proprio ragione di vivere questo verso, proprio oggi, perché hanno ragione di festeggiare, di rallegrarsi per questa tappa, e lo faranno insieme ai loro amici, parenti, lo fanno insieme perché è una tappa importante quella che hanno raggiunto, ma il verso fa riferimento al giorno della salvezza. Questo salmo fa riferimento al giorno in cui hai consapevolezza che sei salvo e i tuoi peccati sono perdonati in Cristo Gesù, e quindi per chi crede nella risurrezione di Cristo Gesù ogni giorno è giorno di festa. Gioisci! Gioisci! Vi fate un sorriso mentre lo dico, perché è triste dire gioite e vedervi tristi. Gioiamo! C'è gioia in abbondanza, e la gioia è una nostra scelta. Ogni giorno, anche nelle situazioni più difficili, anche nelle stagioni più buie, noi possiamo accendere la gioia attraverso l'adorazione, la gratitudine e la consapevolezza che sebbene in questa terra le cose magari non vanno, ahimè, come desidereremmo che andassero, però noi abbiamo l'eredità della vita eterna. Siamo salvi, siamo perdonati, siamo riconciliati. Abbiamo una relazione con il Creatore, la fonte di ogni gioia. Sii gioioso, gioisci oggi. Non rimandare la tua gioia a domani. Perché devi gioire domani? Oggi, oggi. Hai bisogno di gioia? Vieni, ti presento mia figlia. Oh sì, lei che sì che ci fa stancare, dormire poco, perdere i cicli, no? Dico delle stagioni, però ci dà gioia. I bambini danno gioia, gli anziani danno gioia, e basta guardare la vita secondo una certa prospettiva e puoi sempre afferrare gioia da qualsiasi cosa. Ma Mirko, io vivo a Modugno in provincia di Bari, nella Puglia e nell'Italia miserabile. Puoi vederla così, oppure puoi vederla come: grazie a Dio io vivo a Modugno, in Puglia, nell'Italia. Non vi vedo convinti. Vedo tante argomentazioni politiche che passano attraverso la vostra mente. Vedo le tasse da pagare, le bollette. Vedo l'inquinamento di Modugno e tutte le motivazioni per le quali lamentarsi per il traffico, il parcheggio che non abbiamo trovato. Ma siete consapevoli che viviamo in uno di quei posti unici al mondo che gode di un benessere? Siamo in un locale, abbiamo un tetto sopra la nostra testa, abbiamo un riscaldamento che sta riscaldando, siamo seduti su una sedia. Abbiamo un ospedale a pochi chilometri. Abbiamo l'opportunità di un soccorso immediato, qualora ci dovessimo sentire male. È tutta una questione di prospettiva, fratelli e sorelle. È tutta una questione di prospettiva. E puoi vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma io ti invito ad avere un anno benedetto, cominciando a cambiare prospettiva e ad essere grato per il bicchiere che è molto più che mezzo pieno. Ed è un'offesa la nostra ingratitudine. È un'offesa la tua ingratitudine per il posto in cui ti trovi. È un'offesa per milioni e milioni di persone disperate che si desidererebbero e darebbero la loro vita e la danno per raggiungerci qui, a Modugno, in Puglia, nell'Italia. Gioisci! Gioisci! Terzo punto. Quarto punto, vivi pace. Qui Enza mi ha anticipato, perché c'è un verso che ci invita a vivere la pace. Ed è il verso in Efesini, al capitolo 4, versetto 26, che dice: se vi arrabbiate, attenti a non peccare. La Bibbia è molto, come dire, concreta, reale. Sa che ci arrabbiamo, sa che viviamo le emozioni, prima ancora che si studiassero e si sapessero, prima ancora che facessero Inside Out 1 e poi Inside Out 2, la parola di Dio sapeva che noi viviamo di emozioni e che queste emozioni devono avere il loro corso. Però la parola di Dio dice: se vi arrabbiate, perché vi capiterà di arrabbiarvi e vi capita di arrabbiarvi, non peccate, perché alla rabbia può scaturire, può confluire uno stato di peccato, l'ira, il rancore, l'amarezza, la mancanza di perdono, la mancanza di sopportazione. Ed è per questo che il verso aggiunge e dice: la vostra ira sia spenta prima del tramonto del sole. Prima del tramonto del sole. Vedete il ciclo. Dio dice: hai un ciclo, la tua giornata è un ciclo, non aspettare a domani per perdonare e per calmare l'ira e per risolvere conflitti e per risolvere situazioni non rasserenate, fallo subito. Quello che questo verso ci invita a fare è risolvere i conflitti prontamente, velocemente, e a perseguire la pace. È incredibile quante persone non fanno altro che cercare conflitti e vivono nel conflitto continuamente con chiunque per qualsiasi ragione, e la parola di Dio dice: è uno spreco di tempo e addirittura può essere così pericoloso da lasciare spazio al diavolo. Infatti il verso continua e dice: la vostra ira sia spenta prima del tramonto del sole, non date spazio al diavolo. Che cosa sta dicendo? Che noi possiamo cadere nell'errore di dare spazio al diavolo nelle nostre vite perché non spegniamo la ira prima del tramonto del sole. Non dimenticherò mai una giornata del nostro matrimonio molto triste. Abbiamo litigato, abbiamo tenuto il muso, io più di mia moglie. E l'ho tenuto bene nel mio orgoglio, perché noi uomini sappiamo tenere il muso, sappiamo farla pagare senza parole. E tutta la giornata è andata avanti in questo silenzio che era pesante più di mille parole. E il mio silenzio era un modo per punire mia moglie, era un modo per vivere il rancore e vendicarmi di quello che era accaduto. Quella sera andammo a dormire. Io girato da una parte, mia moglie girata dall'altra. Per me la notte poteva andare avanti così. Forse non avrei dormito, forse avrei macinato e avrei continuato ad elaborare tutto quello che ci eravamo detti, ma io ero più predisposto a non dormire una notte intera che darla vinta a mia moglie. E in questo silenzio, dove entrambi non stavamo dormendo, a un certo punto mia moglie cita in qualche modo questo verso e dice: amore, dobbiamo risolvere. Amore, dobbiamo parlare. Pesanti, pesanti parole. Non avrei mai voluto sentirle, ma aveva ragione. E sapete, quando subentra Dio nel rapporto di coppia, è tutto un altro discorso. Perché io potevo dare il mio silenzio a mia moglie, ma non volevo e non posso dare di silenzio a Dio e alla sua parola. E quando mia moglie cita nella maniera giusta e non come arma o come modo per manipolarmi la parola di Dio, questo fa solo bene alla nostra unità. E quella sera, erano le 11, mezzanotte, ci siamo fermati e abbiamo parlato e ci siamo espressi e ci siamo trovati e scontrati e poi perdonati, amati e abbiamo pregato. È stata una notte buona e soprattutto il giorno dopo era un ciclo nuovo, una gioia nuova, un matrimonio rinato. La parola di Dio è reale, concreta e ci dà degli strumenti per vivere anni meravigliosi e benedetti, matrimoni sani e relazioni che si risolvono. Quindi con chi non hai risolto? E per quanto tempo hai in mente ancora di tenere il tuo muso, il tuo silenzio, la tua rabbia? Quanto ancora vuoi vivere nel rancore, nell'ira, nello scattare, nello stizzirti per qualsiasi cosa e per qualsiasi episodio? Cambia questa attitudine se vuoi un anno nuovo e benedetto. Cambiala ora, decidi ora. No, io sarò una persona che perseguirà la pace. Vivi pace. L'ultimo, ma non di meno importanza, anzi potrebbe essere benissimo il primo, ogni giorno segui Gesù. Lo lascio dire a Gesù con le sue parole. È Gesù che parla in Luca 9, 23 e dice così: diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno. Prenda ogni giorno. La vita cristiana non è la vita della domenica, non è del culto domenicale, non è dell'episodio e della parentesi che si apre una tantum, non è della preghiera prima dei pasti, non è questa la vita del cristiano. La vita del cristiano è una vita resa completamente a Cristo, arresa completamente al Re, a cui viene dato il diritto di essere avanti, e noi seguirlo in rinuncia, abnegazione, prendendo fino alla croce che all'epoca, quando Gesù la citava, doveva far scalpore alla folla che l'ascoltava, perché era l'attrezzo di tortura romana. E Gesù dice: se uno vuole seguire me, allora sia disposto a morire atrocemente. E il suo è un riferimento non solo fisico, ma soprattutto emotivo, psicologico, dell'anima. Metti a morte te stesso, le tue convinzioni, i tuoi pregiudizi. Oh, quanti pregiudizi ci sono in questa sala oggi, su Cristo, su Dio, sulla Bibbia, sulla Chiesa. Metti a morte, rinuncia a te stesso per afferrare la vita piena, perché non è che Dio ci invita a una vita di abnegazione, sofferenza, tortura, dove non c'è nulla da guadagnare. No, se sta facendo questo invito è perché le persone lo volevano seguire questo Cristo che dava vita, dava guarigione, dava soluzione, era di ispirazione, attirava le folle. Allora oggi, se sei attratto da Cristo in una qualche misura, Se lo vuoi seguire in questo anno, in questo 2015, rinuncia a te stesso. Prendi ogni giorno, vedete, Gesù ci tiene a precisare, è ogni giorno, è una scelta quotidiana, la tua croce e seguilo. E poi aggiunge: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo? Ascoltate Gesù cosa dice ancora nel 2025. A che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo? E nel 2025 che ci sono così tanti uomini che vogliono guadagnare tutto il mondo e stanno perdendo tutto. Che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo, Cristo Gesù, avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei suoi santi angeli. Gesù ci dà una prospettiva del futuro. Ne parla tanto, ma non tanto del futuro terreno. Gesù ci proietta sempre verso il futuro eterno. E allora se vuoi vivere un anno benedetto, un 2025 significativo, allora non proiettarti tanto ai progetti, alla realizzazione, ai piani, al guadagnare il mondo in questo anno, proiettati alla vita eterna. C'è un altro verso che dice: se siete risorti con Cristo, abbiate la mente rivolta alle cose di lassù, non a quelle di quaggiù. Loda, perdona, gioisci, vivi pace e segui Cristo. Vogliamo ripeterlo insieme? Loda, perdona, gioisci, vivi pace, segui Cristo. Ancora una volta, loda, perdona, vivi pace, gioisci, vivi pace, segui Cristo. Cambiando l'ordine dell'addento, i risultati non cambiano. Avrai un anno benedetto. Vogliamo alzarci. Oh Padre, io voglio pregarti per un 2025 guidato da te. E per un anno benedetto io prego per oggi, io prego per questa giornata, per questa domenica, per oggi 5 gennaio, che sia un giorno di adorazione, che sia un giorno di perdono, che sia un giorno dove gioiamo, che sia un giorno nel quale viviamo pace, un giorno nel quale seguiamo te Cristo. Io prego che in questo momento ogni bagaglio, ogni attrito, ogni riserva accumulata del nostro passato possa essere lasciato ai piedi della croce e che ognuno di noi alleggerito possa ricevere l'amore, la grazia, la freschezza che il perdono porta, che la pace porta. Prego questo per tutti noi come Chiesa e per ognuna delle persone che ha ascoltato questo messaggio. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen. Vogliamo adorarlo insieme. E in questo tempo di adorazione, in questo breve coro che faremo, arrendi il tuo cuore a Gesù. Forse non tutti e cinque i punti ti hanno toccato particolarmente, ma forse uno. Beh, se uno di questi punti ti ha toccato particolarmente, sappi che non è stato per l'ingegno della mia comunicazione o perché è stato detto con più enfasi, è perché lo Spirito Santo ha voluto parlare al tuo cuore proprio per quell'aspetto, da risolvere, da cambiare. Perché Dio ti ama tanto che ti ha portato in questo luogo per farti considerare proprio quell'aspetto, perché Lui vuole che tu abbia un 2025 benedetto. Lui è il Dio buono che vuole il meglio per la tua vita. E allora mentre adoriamo, risolvi e prendi decisioni in preghiera davanti a Dio.